Eccoci! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Eccolo il cross col sinistro di Kishna, la schiacciata di testa di Milinkovic-Savic alla prima da titolare, il primo gol con la maglia della Lazio. Ancora Anderson Pico, il lavoro in copertura su di lui da parte di Gentiletti, non è finita, ancora un cross, palla dentro, Selesniov, incredibile, arriva il pareggio all'ultimo secondo, anzi a tempo scaduto del Dnipro. Palla dentro, buona per Kalinic, vince il contrasto, poi con una mano, Nicola Kalinic 1-0. E prova ad uscire un po' la Fiorentina, adesso Bjarnason in area di rigore con il destro, Sepe e Bjarnason trova il pareggio con l'aiuto del palo. Palla per Elneny che prova la conclusione, trova un gol meraviglioso. Splendido gol dell'egiziano Elneny, 2-1 per il Basilea. Buon pomeriggio a tutti, è un piacere aprire con tutti i convocati la terza spedizione di Radio 24 Expo. Siamo, giusto per geolocalizzarci, siamo allo spazio Emilia Romagna, ai piedi del padiglione Italia. Davanti a noi, davanti a me, a pochissimi metri c'è la Ferrari di Kimi Raikkonen. Quindi è piuuttosto facile, insomma, trovarci, e spero veniate a trovarci naturalmente. Radio 24 qui tutta la prossima settimana, noi ci saremo anche mercoledì e giovedì prossimi, insomma. Ho fatto il quadro, ci siamo geolocalizzati, ovviamente Giorgio De Luca in redazione, qui con me Carmelo La Rovicella, Benjamin e tutta la squadra, Luca Burato, Davide Cioccia, siamo tantissimi. 800 24 00 24, spero sarete tantissimi anche voi a chiamare, a chiusura di una ottima Eurosettimana. Beh, l'ultimo riflesso che abbiamo sentito nella copertina è stato il risultato peggiore, naturalmente la sconfitta della Fiorentina in casa con il Basilea, poi c'è la manita del Napoli con il Bruges. Il Napoli non sa essere normale, almeno in questo periodo, è sempre esagerato. La Lazio rimontata all'ultimo secondo sul campo del Dnipro, vice campione, e poi ovviamente c'è quanto abbiamo visto tra martedì e mercoledì nell'Europa maggiore, cioè quella della Champions League. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Bene, bene, tanta gente a Expo, un sacco di visitatori, spero vengano a visitarci anche noi di Radio 24. Molto caldo, tutto a posto. Grande Eurosettimana che si è rovinata poi nel finale, l'ultimo quarto d'ora della Fiorentina e dal gol oltre il tempo scaduto del Dnipro, che pesa, insomma, secondo me. Per quanto riguarda la Champions, ne abbiamo lungamente parlato, mi sembra che siano state veramente due imprese diverse, perché certamente la vittoria della Juve in casa del City è un risultato clamoroso, il pareggio della Roma è un buon risultato, un ottimo risultato, sì, ottenuto attraverso tanta sofferenza, però contro una squadra che, lo sappiamo, ne sa qualcosa anche la Juve, è quasi ingiocabile, una squadra con la quale se pareggi è come se avessi vinto. Quindi la capacità di soffrire della Roma è un pregio, qualcosa che forse l'anno scorso la Roma non era in grado di esprimere, forse è un valore aggiunto della Roma di quest'anno. Assolutamente, anche una maggiore consapevolezza dei propri limiti, che non è male, perché è importante, perché è un segno di maturità e di esperienza. Adesso vediamo, insomma, il campionato sta per tornare e ci darà subito, secondo me, dei test importanti, perché per esempio la partita, sì, che la Juve gioca a Marassi non è affatto banale, non è, quindi, banale. Proprio perché non è banale, insomma, se dovesse vincere e convincere la Juve, sarebbe l'inizio di un nuovo percorso. Certo, poi c'è il Napoli che riceve la Lazio, e quello sarà il test vero, più di quello di ieri sera con il Bruges, con Calaiuan e Martens che hanno fatto i numeri, due gol a testa. C'è il Milan che è costretto a vincere domani sera in casa con il Palermo. Insomma, un sacco di partite che ci aspettano, un sacco di temi di cui parlare. Ci fermiamo per il traffico e torniamo subito dopo. 800 24 0024 è il numero verde da Expo. Tutti convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta. Tutti convocati. Bardo, quando vieni qui a Expo settimana prossima, non ricordo se mercoledì o giovedì, porto un venti d'acqua, perché qui nel nostro studiolo di vetro siamo all'effetto serra totale. Immagino. Massimo Mauro, che piacere! Ciao, grande piacere per me. Ciao Pier, bene, grazie. Ieri Massimo ha commentato Napoli, sorvegliato, sì. Speciale, addirittura esagerato con il Bruges. Non so se sono più sorprendenti i 5 gol fatti o lo 0 nella casella di quelli subiti, Massimo. Ho detto che era la cosa di cui andare fieri ieri, no, per il Napoli, non aver preso gol. Però davanti avevano veramente una squadra che forse non è così male come l'abbiamo vista ieri, onestamente. Ieri ha giocato, sì, veramente male. Sì. Sì, Sarri è uno degli allenatori più a rischio, è inutile nasconderlo, forse lo è ancora, abbiamo sentito tutti quello che ha detto tuo amico Maradona, Massimo. No, questo non mi piace davvero, Diego non deve fare male, tra virgolette, a chi lavora a Napoli, deve capire che le sue parole sono sempre molto molto importanti per l'ambiente napoletano, quindi Sarri non merita, insomma, ancora più carico di quello che ha già avuto, meritato devo dire, perché l'inizio non è stato brillante, ecco, quindi, però si vede la sua mano, si vede che i giocatori tentano di stare corti, di stare stretti, di pressare, insomma, mi sembra che la volontà di fare qualcosa di diverso rispetto al Napoli degli ultime due stagioni si vede, bisogna vedere se ci riusciranno, insomma. E poi la cosa ieri si capiva proprio che ce l'ha messa tutta a cercare di trascinare Albiol e gli altri a stare più vicini, a non far giocare. Ci sono riusciti, devo dire, ieri sera ci sono riusciti, adesso vedremo nel campionato. Ma poi la cosa importante è l'atteggiamento, Pierluigi, al di là delle parole di Maradona, i giocatori stanno con Sarri, e questo si legge anche nel linguaggio del corpo, come oltre che nell'impegno e nell'applicazione, come diceva Massimo. C'è un discorso di modulo che da ieri sera diventa il tema, nel senso che era una cosa che in qualche modo avevamo pensato e forse avevamo anche detto nelle settimane precedenti, cioè il Napoli con tutti gli attaccanti esterni che ha a disposizione sembra una squadra nata per il 4-3-3, perché Callejon, Mertens, stessi Gabbiadini e Insigne, che ricordiamo si è adattato bene da trequartista, ma in realtà è un attaccante esterno, nasce da attaccante esterno, sembrano proprio perfetti per giocare in quel modo. Ieri il Napoli ha giocato in quel modo, ha vinto una partita ovviamente con tutte le precauzioni, le cautele per la forza dell'avversario che non è il massimo, e adesso il vero tema è capire da dove ripartirà. Ieri ho sentito la conferenza stampa di Sarri, nella quale Sarri, devo dire che mi diverte molto in conferenza stampa, perché è uno che parla con una schiettezza che è rara, nel senso che è uno che parla dei singoli, che dice questo sta facendo bene, questo sta facendo male, ha fatto capire ieri che per esempio Jorginho potrebbe superare nelle gerarchie Valdifiori, e ieri ha fatto, alla fine della partita, sul modulo ha fatto anche capire che non è detto che il 4-3-3 a questo punto diventerà il modulo guida, che secondo lui Higuain gioca meglio col 4-3-1-2. Io qualche dubbio ce l'ho, francamente. A me sembra, e vorrei sentire anche Massimo, a me sembra che il Napoli sia nato per giocare così, col 4-3-3, anche perché la protezione del reparto difensivo è ancora maggiore. Il 4-3-3, senza fare del covercianesimo, diventa in fase di non possesso facilmente 4-5-1 e protegge la difesa molto di più. Certo. Pier, no, sì, io però ho detto una cosa ieri che ribadisco, cioè se i migliori in campo sono Mertens e Callejon, alla fine del campionato tu puoi arrivare quarto, quinto, sesto, terzo, se il migliore in campo è Higuain in tutte le partite tu rischi di vincere il campionato. Ora, io credo che, dico una cosa ovvia, no? Perché i grandi giocatori devono assumersi la responsabilità di trascinare la squadra alla vittoria, però se tu giochi proprio senza guardare i movimenti di Higuain e quindi gli passi veramente la palla quando non ne puoi fare a meno, Higuain va in difficoltà. Ieri guarda, gli passava la palla sopra la testa da destra a sinistra perché ce la passavano Cagliarone e Mertens, che poi hanno fatto benissimo, hanno giocato molto bene, per l'amor del cielo, no, hanno vinto bene, però hanno giocato contro il Bruges. Il Napoli deve mettersi in testa che deve sfruttare alla grande e come priorità assoluta le caratteristiche di Higuain. Massimo, tra gli allenatori in bilico in questa Eurosettimana, paradossalmente, fino a martedì notte c'era anche Massimiliano Allegri. Qual è il tuo pensiero su questa contestazione strisciante che c'è stata, sui fischi, su questa voce che continua a dire ma l'anno scorso ha vinto perché la squadra di Conte, adesso che deve ricostruire la squadra, vediamo che Allegri non è all'altezza. Questo è un pensiero diffuso tra parte della tifoseria juventina. Ma che ricostruire sia più facile, più difficile che gestire, non c'è dubbio. Che il gruppo della Juve l'anno scorso aveva motivazioni straordinarie perché tutti volevano far vedere che vincevano anche se senza Conte, non c'è dubbio. Che per Allegri è stato difficilissimo arrivare a Torino ed essere apprezzato e addirittura amato alla fine, Allegri ha meriti straordinari. Che c'è una spiga serpeggiante all'interno della Juve quest'anno con infortuni ed altro, non c'è dubbio. Io credo che Allegri avrebbe potuto fare meglio nelle partite di campionato contro Udinese e Chievo, senza turnover, no? Senza pensare che Padoin potesse essere l'unico a giocare davanti alla difesa, insomma, senza pensare che Comando doveva giocare al posto di Bala. Insomma, ci sono alcune cose che da lontano uno, da osservatore, può sì, mettere in discussione, però Allegri in quanto allenatore della Juve mi sembra assurdo metterlo in discussione, onestamente. Questo è chiaro. Mi sono sembrati segnali alla società, quelli, no, di Padoin, ma io non so, di Comando. Non lo so se sono segnali alla società, io dico semplicemente che non può essere così. Che non può essere che quando la Juve vince è merito di Conte e quando perde è colpa di Allegri, lo dico proprio sinceramente, fermi restando i meriti di Conte che sono enormi, e Conte ha costruito questa squadra, quindi proprio merita gratitudine eterna per aver girato una ruota che sembrava avviata invece in negativo. Però Allegri lo scorso anno ha superato il maestro, ha superato il predecessore, perché questa squadra l'ha resa protagonista anche in Europa, e la partita dell'altro giorno in qualche modo ci fa pensare anche a un certo tipo di DNA europeo che sembra una cosa molto astratta, ma in realtà significa non che non lo è, perché significa che nelle grandi partite scusami, però gli allenatori, i giocatori, tutti quanti, a mio avviso, tutti i protagonisti, a mio avviso, si devono mettere in testa che però la critica è necessaria sulla partita. Non significa mettere in discussione il professionista, l'allenatore, quello che ha vinto, certo. Però sulle partite dobbiamo avere il diritto, dovere di discutere. Sì, beh, chiaro. E se un allenatore dice nel mio gruppo l'unico che può giocare davanti alla difesa è Padoin, io dico che secondo me dice un'assurdità, che però è però rispetto. Ci mancherebbe altro, però perdi due partite, certo non per colpa di Padoin, perché Padoin è il fuoriclasse dei gregari, ma certo, se gioca da leader è il peggior leader che si possa avere, certo, in una squadra, chiaro, soprattutto chiaro, in una squadra che può vincere, che deve vincere lo scudetto. Ma non l'hai interpretato questo, anche tu, come un segnale alla società? Cioè mi serve un giocatore lì? Ma sì, può essere, ma mi sembra la maniera peggiore per trattare con una sola società, però soprattutto poi con la Juve, che negli anni si è assunta la responsabilità di comprare dei giocatori senza il benestare dell'allenatore, e che è quello che secondo me dovrebbero fare tutte le grandi squadre e società. Sono d'accordo. Questo è il punto vero. Quest'anno la Juve certamente non può nascondere Marotta, che è andato un po' in difficoltà a trovare i giocatori che voleva, però ha fatto anche bene a non spendere cifre pazzesche per giocatori secondo me mediocri, e di alto livello ma mediocri. Quindi alla fine è arrivato Hernanes e faranno con Hernanes, però non si possono neanche spendere 40 milioni per Draxler, onestamente. No, assolutamente. Che ne dica Müller. Massimo, grazie, è stato un grazie piacere. Grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao, Massimo. Ciao, ciao, Pier, ciao. Ciao. 800 24 00 24, il numero verde, vi aspettiamo dopo la borsa. Ciao professore, come stai? Grazie. Ciao. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Questo fosse vero amore, vero amore, tu non mi lasceresti mai, c'è bisogno di... Pierluigi Pardo? Yeah. Eh? Che dica, come va? Che ho fatto di male io per non aver mai provato il vero amore nella coppia? Non l'ho scritto io, Non l'ho twittato io. Di chi è questa canzone? Vediamo se sei preparato. Beh, siamo di fronte a un brano stupendo dei Raga. Ragazzi italiani? Sì, bravo Pierluigi. Anno 1990. Aspetta, qual era quella famosa dei Ragazzi italiani? Era questa. 1997. No, non era questa. Non che era facevi questa nel 1997? Era questa, nel 97 avevo 23 anni, stavo per laurearmi e ho fatto l'Erasmus l'anno prima, avevo cominciato a collaborare con Telepiù, ero un pischelletto, facevo le partite del Perugia, della Ternana, del Napoli in Serie B per Telepiù, mi divertivo abbastanza, era il periodo che mi ero andato a vivere all'estero, per cui mi svegliavo tutte le mattine intorno alle 2 del pomeriggio. Sì, certo. Sì, era sì. Beh, è un bel periodo, Non male. Mica male, mi piace leggere elogi e critiche da voi tutti su ciò che scrivo, ma ehi, non prendete sempre tutto così seriamente. Siamo ragazzi, scrive ancora Balotelli, non ha mai conosciuto vero amore, speriamo che ritrovi i veri gol, lo spesano soprattutto i tifosi del Milan, anche se pure domani partirà dalla panchina, un Balotelli tenero, Pier, che sia cambiato davvero qualcosa, quello che dico, che vale per Balotelli, che valeva per Cassano, sono in Cassano da questo punto di vista, non lo dico perché è mio amico, ma è certamente maturato da anni. Però per questo tipo di giocatori l'errore più grande è quello di farsi condizionare da una singola cosa. Cioè Balotelli per ora ha fatto delle cose molto positive, è entrato bene l'altro giorno, questo messaggio può intenerire, ma Balotelli non deve dimostrarci di essere una persona tenera. Balotelli è una persona tenera, deve dimostrarci di poter stare 6 mesi senza fare casino dentro e fuori dal campo, essendo un leader vero tecnico di una squadra. Cioè lui dimostra di essere, questo è il problema, no? La continuità. Balotelli deve dimostrare la continuità, i colpi nella normalità, che per lui può essere una normalità di eccellenza. Fino adesso è stato incapace di essere normale. Il problema è che abbiamo sempre fretta, no? Soprattutto con i personaggi come lui, e i media in questo sono assolutamente tra virgolette colpevoli, cioè sono parte della storia. È ovvio che siamo sempre lì pronti quando succede qualcosa di bello o di brutto a commentarlo, però la verità è che su Balotelli i binacci si possono fare, mai come in quel caso servirebbero veramente, il bilancio lo devi fare dopo tanto tempo, dopo un anno, dopo due anni, e con un anno di continuità, una stagione di continuità, alla fine puoi dire beh, forse abbiamo trovato un giocatore su cui poter fare affidamento. Certo, 800 24 00 24, ripeto, un piacere per noi, per tutti i convocati, oggi aprire il terzo episodio di Radio 24 all'Expo. Siamo a Spazio Emilia Romagna, che stanno allestendo ai piedi del padiglione Italia, dietro la Ferrari, vera, non è modellino, quella vera di Kimi Raikkonen, e saremo qui anche mercoledì e giovedì prossimi. Per quanto ci riguarda, poi c'erano tutti i programmi di Radio 24, intanto ci sono ascoltatori che hanno risposto alla convocazione, a cominciare dall'omonimo di Pardo, Pierluigi da Venezia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come va? Buongiorno. Bene, grazie. Dica. Ti chiamano Gianluigi pure a te, continuamente. No, mi chiamano in 10.000 modi, sinceramente. Sì, Pierpaolo, Gianluca, Gianluigi. Ma Gianluigi va tantissimo, io non so perché Gianluigi. Gianluigi è un nome anche più sfigato di Pierluigi. Comunque siamo lì, insomma, no? Ce la giochiamo alla pari. Non abbiamo nessun complesso di inferiorità nei confronti di Gianluigi. Salutiamo anche Buffon, che magari ci starà ascoltando. Ed è pieno di gente che ci chiama Gianluigi. È incredibile. Vabbè, chiudo la parentesi. Non è chiaro il motivo, ma comunque. No, non è chiaro. Prego Gianluigi. Dica, Gianluigi. A proposito di Milan, volevo fare una domanda un po' tendenziosa, anche ironica. Voi che siete a conoscenza dei meccanismi della società che noi mortali magari non vediamo, ma Honda ha degli interessi particolari con qualcuno in società, ha degli affetti, delle cose segrete, dei ganci, delle raccomandazioni, cose così, dice. Non so capire come mai. Io credo che giocherebbe meglio a Biatti da trequartista, sinceramente. Tanto prende uno, ecco. Avete qualche informazione? No, non so Gianluigi. Gianluigi Pardo. Ti ringrazio, Claudio. No, io penso che Honda sia un buon giocatore. Lo so che è una cosa abbastanza controtendenza. Penso che abbia una qualità dinamica, cioè riesce a fare anche delle cose in fase di non possesso che sono utili, quindi alla fine il suo contributo lo porti. Ma certo, da trequartista, Pier. Da trequartista. No, è che quel ruolo lì. Non capisco bene quale sia la collocazione tattica ideale di Honda. Mi ricordo un eccellente giocatore quando giocava a Mosca, quello sì. Ma lui può fare uno dei due nel 4-3-2-1, se giochi l'albero di Natale, può essere uno dei due giocatori a supporto della punta centrale, può fare il trequartista, centrocampista avanzato, dai, non lo so, io non è chiaro, è chiaro che il trequartista del Milan, così come siamo stati abituati negli anni a pensare e a considerare il Milan, insomma ti aspetti qualcosa di più, no, dal punto di vista tecnico, quindi lì dove c'era Kakà, là dove c'era l'erba adesso c'è una città, ecco, là dove c'era Kakà adesso c'è un da, e fa un po' di differenza, no, ovviamente, però io non sono così drastico come l'ascoltatore, anzi penso che sia un giocatore tatticamente importante, e poi non è che ci siano molte alternative, puoi avanzare Bonaventura, non lo so, anche l'altro giorno il famoso cambio che ha fatto arrabbiare alcuni, no, con l'uscita di Bacca quando è entrato Balotelli, molti pensavano che potesse uscire Honda, però alla fine secondo me un tridente così sbilanciato, certo, anche se dovevi recuperare, non era facilissimo, quindi è stato condivisibile quel cambio, mancava ancora ma non è uno scandalo che giochi secondo me con una certa regolarità in questo Milan, anche perché molti meglio di Honda non c'è in questo momento nel Milan. Saro, che sta per Rosario naturalmente, da Siracusa, buongiorno, sta per Rosario, buongiorno, no? Come state? Tutto bene? Grazie per la convocazione. Io volevo fare un intervento velocissimo sul campionato, allacciandomi anche a quello che ha detto Pardo prima, cioè questa fretta incredibile nel tranciare i giudizi. Mi sembra che quest'anno anche critici, diciamo, di un certo peso televisivi si siano avventurati in previsioni che secondo me ancora sono un po' premature. Nel senso, definire l'Inter una squadra come già se avesse vinto il campionato o anche, diciamo, tra le pretendenti al titolo, mi sembra un po' eccessivo per questo tipo di squadra allestito. Così come, secondo il mio giudizio, quest'anno Juventus e Roma le vedo sempre un pochino più avvantaggiate rispetto alle altre, e magari se la Roma l'ambiente tiene, probabilmente riuscirà a invertire la tendenza degli ultimi due anni. No, certamente la Roma in questo momento è la squadra più è la squadra più rodata, è quella che ha cambiato di meno tra quelli lì davanti, può invertire eccetera. Veramente la tendenza della gara, ma dipende molto dall'ambiente romano, che sappiamo benissimo questo non è una novità, non condizionerà la squadra. La Roma la vedo sicuramente avviata a un campionato di vertice. Tutto volevo condivisibile, questo sì. Dipende un po' sopravvalutata l'Inter, francamente pensare a un regista Felipe Melo campione d'Italia mi sembra un po' fuori luogo, però, non lo so, cioè, ma insomma, fuori luogo a Felipe Melo c'è un ma salto, questo non c'è dubbio, però è un giocatore che comunque secondo me in quella trama è importante, in quella costruzione è importante. Ciao Michele Plastino, che piacere. Ciao a tutti. L'autore dello scoop della settimana, diciamolo. Eh sì, l'intervista a Maradona in cui che ha fatto il giro del mondo ed è arrivata ovviamente anche al diretto interessato a Sarri, a Panca, hanno regalata la panchina a Sarri. Vi faccio fare un sorriso perché sai quando tu prevedi una cosa poi no, alla riunione che avevo fatto prima della trasmissione avevo detto ragazzi non vi fate prendere dalle solite nostalgie su Maradona, no, perché gliel'abbiamo fatte 100.000 volte, facciamo in modo di fare domande da lancio ansa. In effetti poi ci ha pensato lui, cioè, poi ci ha pensato tutto lui a dire la verità, perché insomma è stato un suo show. Non tutto condivisibile, tra l'altro. Come hai trovato? Adesso poi parliamo del merito di Sarri, tutto il resto, ma insomma tu sei legato da un rapporto speciale, credo, con Maradona, hai passato ovviamente le fasi più belle e le fasi meno belle della sua vita. Come sta adesso off records? Guarda, io l'avevo incontrato anche una volta a Roma dopo tantissimi anni, poco tempo fa, che era lì al Cavalieri, all'ex Hilton, no? E il fatto che sembrava almeno che mi avesse riconosciuto, mi aveva confortato non solo per l'autogratifica, ma perché ho detto va bene, è bello lucido. Quindi l'ho trovato un po' a rallenti, ma lucido e ben consapevole di tutto quello che diceva. Questo ci fa enorme piacere, ci fa enorme piacere. Almeno... Speriamo. Sul merito invece, cosa non condivisibile tra le cose che hai detto? Quella relativa a Sarri? Quella relativa a Sarri era, sentivo il discorso precedente, forse un po' prematuro, non era confortato da critiche tattiche. Io sono contento che ho visto il Napoli finalmente col 4-3-3, che mi sembrava una cosa inevitabile. Ma siamo inevitabile. Tutti d'accordo, dai, capito? Quindi da luglio adesso Sarri se n'è accorto, ok, però proprio il pregiudizio, non sei nessuno, sei come mio zio, eccetera, mi sembrava veramente eccessivo. Infatti era Iacobelli che gli aveva detto ma anche Sacchi, e lui ha detto vabbè, ma Sacchi è una cosa a parte, cioè, però lì forse era stato un po' esagerato, come anche le terminologie su Platini, solo che a un certo punto era difficile pure dissociarsi per eventuali querele, perché doveva essere una dissociazione continua. Beh, il metodo Biscardi, però guarda, questo lo dico a Pier che sa, conosce quello studio, però gli ho detto a un certo punto che lui non è vero che era il numero 10, ma era il numero uno ancora nella corte e nello sciupa femmine, perché non puoi capire Pier quanto abbia corteggiato in onda Elena, che era la mia immagino. Ma non potete immaginare, in maniera elegante, devo dire, è molto carino, però insomma, è Maradona, è proprio il lupo perde il pelo, il lupo perde il pelo. Aspetta un attimo, ci teniamo Michele Plastini in onda, facciamo, aspetta, abbiamo, sì, vi sento tutti, ma abbiamo il traffico. Pare che questo signore che oggi allena il Napoli, le hanno fatto un regalo di compleanno grandissimo. Tutti convocati. Tutti convocati. E torniamo in diretta da Expo. 800 24 00 24 è il numero verde, in collegato con noi Michele Plastino, che di nuovo ringrazio, e c'era Pierluigi Pardo che stava chiedendo qualcosa quando era bruscamente. No, io stavo dicendo che sono d'accordo con quello che diceva Massimo Mauro prima, cioè io credo che Maradona, per il quale ho un aspetto smisurato da, ovviamente da appassionato di calcio, debba essere anche un pochino consapevole della, e quindi anche un po' responsabile, nel senso che tutto quello che dice ovviamente a Napoli è come se parlasse il Messia, perché lui è il Messia, lo è in assoluto e lo è soprattutto per quella città, e quindi questo attacco a Sarri mi è sembrato appunto un po' ingeneroso, un po' prematuro e tutto sommato fuori luogo. Poi nel sì, merito sicuramente non capivamo e continuo a non capire come non si potesse giocare 4-3-3, il discorso che facevamo prima, però e soprattutto poi sugli argomenti, no? Suo zio, al di là della simpatia che ovviamente fa morire ridere, sì, però sì, insomma troppo. Vorrei sottolineare anche con Michele invece l'eleganza della risposta di Sarri, ma anche di Aurelio De Laurentiis, che a questi microfoni aveva fatto una proposta, ti ricordi, un annetto fa: Maradona potrebbe essere l'ambasciatore del Napoli nel mondo. Chissà se mai si concretizzerà questa cosa. Michele, Maradona dice che non l'ha mai sentito. Sì. E poi Maradona è tutto quello che vuoi, un genio, gli voglio bene, però è permaloso e quindi lui probabilmente questa cosa non l'ha digerita, magari l'ha cercato in un momento che lui all'epoca non era molto lucido e non se lo ricorda, quindi questo non lo sappiamo. L'eleganza nelle risposte è valutabile da vari punti di vista, perché fermo restando che anch'io, appunto, proprio detto, però Diego, non c'è in questo momento Sarri, io credo sempre nel rispetto del lavoro della gente, no? Perché tu, io posso dire Sarri per il 4-2-3, però non dico porto mio zio, ecco, quindi questo sono d'accordissimo. A parte che Sarri lo ritengo comunque un ottimo addestratore, che si era incaponito, può capitare, poi può darsi pure che abbia ragione lui e sbagliamo noi, che non abbiamo mai visto le trasformazioni di Mertens, Insigne, Calderon, trequartisti, vabbè. Comunque detto questo, le risposte, sai, per lo stesso motivo per cui noi valutiamo che Maradona sia un oracolo, anche se Maradona avesse, dico per ipotesi, attaccato o Pierre o me o te, forse saremmo sempre stati attenti se fossimo lucidi nel rispondergli, no? Perché certo, la guerra a Maradona è una guerra perduta in partenza, io sono d'accordo proprio con voi. Ciò non toglie che queste risposte hanno dimostrato proprio lucidità e intelligenza, proprio sia da parte in questo caso di De Laurentiis che di Sarri. Certamente. Michele, un'ultima cosa, guardando alla squadra che è vicino al cuore ti sta, a Lazio, è un mese proprio storto questo, anche il pareggio subito ieri all'ultimo istante in una partita che avevi quasi vinto sul campo dei vice campioni dell'Europa League, è un momento in cui gira male, è un momento di sfiga cosmica per la Lazio, infortunati compresi. Ma no, di sfiga no, perché in questo io ho sempre detto che se uno andasse a fondo sulla storia della Lazio, se c'è un avvento importante da parte di Lotito negli ultimi anni, io ritengo Lotito per la fine un uomo fortunato, cosa che la Lazio questa parola non l'ha mai avuta. In questo periodo è meno fortunata, però attenzione, perché ieri è partita veramente la rabbia, perché ti capita una bellissima occasione di avere un risultato di prestigio con la squadra finalista dello scorso anno, che comunque non è la stessa squadra, però questa è da addetti ai lavori, io parlo così come immagine, anche certo. Con lo stadio vuoto perché chiuso per motivi disciplinari, tra parentesi vi faccio velocemente la domanda, ma era veramente solo per l'invasione finale della qualificazione alla finale? Perché mi sembra veramente una cattiveria questo. Vabbè, comunque fatto questo, un arbitraggio che non si sa perché prolunga il tempo, però ragazzi miei, ma dove stanno i difensori sul cross con tre giocatori da soli davanti alla linea? Ma stiamo scherzando? Il giocatore in campo che mi dice pensava fosse finita, io gli indico la via non dello spogliatoio ma di casa proprio, cioè, sì, quindi questa è una cosa inconcepibile, rabbia decuplicata devo dire nel vedere questa partita. Grazie Michele, grazie a voi, ciao, buon lavoro, grazie. Sei d'accordo Pier? Sei d'accordo? Ma per me la Lazio non è in crisi, la Lazio ha sbagliato due partite. Di risultati un po' sì, Ma la Lazio ha 6 punti, ragazzi, di che parliamo? Sì. La Lazio ha 6 punti, ha perso una partita malissimo contro il Chievo, ne ha persa un'altra che ovviamente significa 30 milioni di investimenti in meno contro il Bayer Leverkusen, però mi sembra mi sembra tranquillamente in linea per fare un campionato di buon livello, un campionato che occhio e croce secondo me può riportarla serenamente in Europa League. Non mi sembra che, cioè, non vedo una Lazio a decimo posto, vedo una Lazio da quinto, sesto posto come valore, e poi una Lazio che fa le cose normali, vince le partite normali, ha vinto in casa due match contro Bologna e Udinese, e alla fine in campionato è quello poi che conta. Poi puoi perdere 4-0 in casa del Chievo o avere le polemiche o lo sciopero del tifo, che chiaramente non fa piacere, che poi in realtà in questa volta è sciopero degli abbonati ma non del tifo. Sì, Napoli-Lazio è un bel test. Napoli-Lazio è un bel test per tutte e due. Ad oggi è un bel test per due, Napoli, sì. Poi vedremo domenica. Ma non so se è cambiato il vento ieri sera o se definitivamente Sarri si è convertito al modulo che hai sottolineato più volte. Grazie Pier. Ciao. Ci sentiamo domenica con te, naturalmente, con Giovanni Capuano dalle 17 alle 19. Noi invece abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme dopo Giornale Radio. Vediamo se riesco a parlare con un ascoltatore. Ce la faccio? Sì. Patrizio, provincia di Perugia? Sì, buongiorno. Provincia di Terni è uguale. Mi ha scritto provincia di Perugia. Abbia pazienza. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Una considerazione su Felipe Melo. Chiaramente io sono tifoso interista. Per quanto ha detto prima il signor Saro da Siracusa, lui vede come uno scandalo quasi che Felipe Melo possa diventare il regista di una squadra che potrebbe essere anche campione d'Italia. No, io vedo che comunque quando è stato acquistato dalla Juventus è stato accolto in Italia come un grandissimo giocatore, poi va bene. Probabilmente il problema è stata quella valutazione, Patrizio, che ha confuso un po' tutti, e è stata eccessivamente pesante per lo stesso Felipe Melo. Maturato, si porta dietro dei difetti congeniti, non è un fulmine di guerra, però è un giocatore solido ed è un giocatore che all'Inter serviva, cioè non va nemmeno enfatizzato. Felipe Melo fa quello che deve e all'Inter serviva un giocatore così. Mancini su questo aveva ragione. Ci fermiamo per il GR e torniamo subito dopo. 800 24 00 24, numero verde. Grazie, buon appetito. Tutti convocati. Tutti convocati. Grande montagna. Negativo. Paolo e Luca sono amici. Paolo vuole abbonarsi alla Pay TV satellitare. Luca ha scelto Premium. Paolo infatti si sta informando sull'installazione, così potrà vedere quello che gli piace di più. E Luca no. Poi scemata. Tiene il pallone in campo, vuole lo spagnolo, ecco Morata, uno contro uno. Morata va via, fallo di Ranocchio, giallo. Tutte le volte che combatto. Ma i gemelli è lui? Ora abbiamo una canzone straordinaria. Dalla prossima estate per 3 anni, 2015-2018, lo sapete. La Champions in esclusiva assoluta su Premium. Fare una tua piccola holding. I motori cominciano ad accendersi tra qualche secondo, il giro di ripetizione. Tutto per andare sempre più forte. Professor Antonio Di Pollina, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco. Non è che sei Expo per caso? No, sono. Se no mi venivi sempre a trovare. In periferia, ma non completamente dall'altra parte. Dall'altra parte. Vabbè, comunque se vuoi venire ti aspetto. Expo ci sta benissimo. Tra l'altro padiglione Spazio Emilia Romagna che stanno allestendo. Noi siamo... suona bene anche solo sentirlo dire. Quindi... Bravo. Saremo qua questa settimana. Senti, io è un po' di tempo che avevo voglia di fare due chiacchiere con te sulla guerra delle TV del calcio. Ormai c'è chi sta con Premium, chi sta con Sky. Non penso siano moltissimi quelli che mettono i piedi in tutte e due le scarpe, però come valuti questa rivoluzione, diciamo la verità, perché tale è, almeno per quanto riguarda il calcio europeo? Sì, è assolutamente una cosa nuova che fa saltare un equilibrio che sembrava stabilissimo negli anni, perché ci sono stati gli anni in cui la Champions, per dire, ce l'avevano tutti, c'è stato l'anno in cui ce l'aveva Skyland, solo Sky l'anno scorso, ma la maggior parte degli utenti, e diciamo che sembrava una situazione abbastanza stabile e che funzionava in qualche modo. Ora Premium decide che che non va bene, decide che per esempio l'anno scorso probabilmente senza Champions ha visto ridursi di parecchio il proprio parco abbonati e decide di giocare grosso e fa un'offerta che non si può pareggiare e si prende il paccone Champions a cui unisce il campionato di Serie A di tutte le squadre più forti. Questa è effettivamente una rivoluzione e il problema sono gli abbonati di Sky in moltissimi, tutti quelli che erano abituatissimi, stabilizzati quasi, fossilizzati nella certezza che pagando quell'abbonamento si vedeva tutto e soprattutto si vedeva il grande calcio europeo che è boccone prelibatissimo come sappiamo e lì inizia una specie di viaggio nell'ignoto che è tuttora in corso, che ha delle evoluzioni continue e di cui a occhio solo verso dicembre potremo tirare un bilancio vero. Sì, io ero quasi convinto che insomma ci sarebbe stato un accordo, l'ho pensato fino all'ultimo, ci sarebbe stato un accordo tra i due colossi in modo da spartirsi la torta e metterci anche un po' meno soldi, almeno per quanto riguarda Mediaset. Sì, ma evidentemente il gioco, almeno in partenza, non era quello, non sta andando in quel modo. Ogni volta che sentiamo dire, ma guardate che ci sarà l'accordo, a occhio e croce, è qualcosa che viene messo in giro da Sky. Perché? Perché? Nel momento in cui senti dire che prima o poi l'accordo lo fanno, ti viene da non abbonarti a Premium. Se non ti abboni a Premium si va abbastanza velocemente verso l'accordo, cioè è proprio il serpente che si morde la coda, è il Duroboros mitologico e quindi è un loop più che un serpente, spero che tu apprezzi la battuta da cui al momento è abbastanza difficile uscire. Però fatto nuovo, cosa è successo davvero? Poi, al di là del fatto che Mediaset, cioè che non si sono registrati suicidi di massa in realtà, che in qualche modo i molto interessati a Juve e Roma la partita sono riusciti a vederla in qualche modo, non ci sono stati psicodrammi particolari da parte degli utenti, insisto, se non in casi isolati che non sono diventati notizia, diciamo, da qualche parte. Quindi cos'è successo davvero per cui a Mediaset hanno tirato un sospirone di sollievo? Che prima di tutto sono riusciti a partire e poi soprattutto la Juve ha vinto a Manchester e poi soprattutto la Roma ha pareggiato, ha fermato in campioni d'Europa, contrariamente a tutte le aspettative che c'erano, e improvvisamente la Champions è ridiventata la cosa più importante che vogliamo nei nostri martedì e mercoledì. E quindi da questo punto di vista hanno una qualche ragione Mediaset a essere soddisfatti. Poi se vai a sentire sia gli uni che gli altri, gli uni dicono stiamo andando benissimo, gli altri fanno sapere guardate che stanno andando malissimo e si ricomincia, ma insisto, basterà attendere un paio di mesi. Però intanto il consumatore, quello che aveva Sky, tanto per intenderci, o che non aveva nulla, deve prendere delle decisioni, deve arrangiarsi in qualche modo, o magari l'ha già fatto in alcuni modi e forse grazie anche a delle offerte stracciate che girano tramite le compagnie telefoniche, non sono proprio pochissimi quelli che continuano a pagare Sky, ma la 20 euro al mese a Mediaset la stanno dando, anche perché la proibizione di Mediaset è molto semplice, ricordiamoci, non ci vuole decoder, non basta proprio la tesserina da inserire nello slot che ormai hanno tutti i televisori. Senti Antonio, ma hanno praticato una politica molto aggressiva, cioè la Juventus non ve la diamo, la Roma non ve la diamo, esatto. Io tutto sommato uno spot che poteva essere quello di Roma-Barcellona in chiaro, giusto per farvi vedere quello che offriamo, fare grandi numeri, grandi risultati, poi magari glielo levi, cioè un paio di giornate di grandi partite che non fossero Chelsea contro gli israeliani, io l'avrei fatto vedere, o no? O mi sbaglio io? Sì, guarda, c'è dibattito su questo e dobbiamo deciderci. Lo spot in un caso simile sarebbe stato per la Pay TV per farsi l'abbonamento in Pay, oppure sarebbe stato uno spot per dire beh, tanto alla fine la fanno vedere in chiaro e quindi chi se ne importa? Cioè è abbastanza sottile questa cosa e non è lineare il comportamento del pubblico e la cosa. Cioè, poteva essere un'arma assolutamente a doppio taglio. Quello che è abbastanza certo è che la Roma al prossimo turno andrà in chiaro, e ed è abbastanza certo che per esempio la UEFA non è felicissima che nei paesi che nei vari paesi le partite delle squadre nazionali vadano tutte criptate, perché evidentemente c'è anche interesse a far vedere così. Il dato davvero curioso di tutto questo è inutile che ce lo nascondiamo: Manchester Juve ha fatto 800.000 spettatori per una partita simile in cui la Juve va a vincere, sono il 10% e non di più di quello che avrebbe fatto, quello che potresti chiaro fare. L'ultima cosa, leggiamo oggi sui giornali: nata la TV di Lega per computer e telefonini, se ne è parlato per un sacco di tempo. Gagliani dice siamo i primi adesso in Europa, in tutto il mondo, nell'universo a fare questo esperimento, costa poco, faranno vedere tre partite a settimana, quella del sabato alle 18, quella della domenica all'ora di pranzo più una delle 15. Insomma, funzionerà, non funzionerà? Anche in questo caso andiamo un po' a vedere quello che succede. È un esperimento, ma fa parte di una logica che è quella, cioè, per intenderci, se noi vogliamo tenere il campionato a 20 squadre, se noi vogliamo tenere la Champions con tutti quei gironcioni enormi di partite all'inizio in cui ce la giochiamo tra di noi e poi alla fine più o meno si passano tutti, è solo per creare più prodotto e crearlo per venderlo. Quindi a quel punto basta venderlo in qualunque modo e hai conseguito il tuo obiettivo. A noi di vecchia scuola, a quelli che ricordano quando la partita di calcio si vedeva solo allo stadio e pagando non poco, proprio perché non è come andare al cinema, non è che te la vedi il giorno dopo nello stesso modo, ma è un evento e tutto quanto. Leggere di partite di calcio vendute a 2 euro l'una fa un po' impressione, francamente, ma ormai la modernità è fatta anche e soprattutto di queste cose. Questa cosa è fatta per, si dice, pubblico giovane, avvertito, schermo del computer diviso a metà, da un lato la partita, dall'altro i commenti dei social che vanno in diretta, o anche le statistiche ci provano, che ti devo dire, a me non fa particolarmente impressione, se non questa cosa abbastanza simbolica, ma insisto, noi siamo anziani, della 2 euro e ti do una grande partita di calcio. Sì, oppure 4 euro per il pacchetto settimanale. O 4 euro per 3 partite di calcio, sembra davvero la svendita in saldo. Però guarda, nella modernità temo che ci stiano dentro per forza anche cose di questo genere. Però sai, Antonio, una cosa importante sarà la qualità del prodotto, no? Proprio sì, la qualità tecnica del prodotto, perché a me è capitato e mi capita tuttora di usare NBA TV sul computer, centinaia di dollari l'anno, 150, ora non ricordo, ti vedi tutte le partite con una qualità perfetta, cioè alta definizione. È quindi chiaro che quell'esperimento, secondo me quello fa tutta la differenza del mondo. Non posso, io lo do per scontato che la qualità sia almeno, non si può scendere dalla qualità di NBA TV, come dici tu, ma anche di Sky Go e di Premium, che ormai viste sui computer di ultima generazione sono di alta definizione vera, e davvero chi non è abituato ci passa davanti e rimane a bocca aperta per come si vede bene sul computer. Quindi quello è assolutamente essenziale, tanto che lo do per scontato che sia così. Dopodiché andiamo a vedere. Grazie Antonio, sempre un piacere. Antonio Di Pollina da Repubblica, ciao Antonio. Allora, Raffaele della provincia di Napoli subito, e poi, visto che abbiamo parlato di basket, ieri si è chiuso presto, maledizione, il nostro europeo, ma con un risultato minimo che a questo punto ci poteva toccare, cioè al quinto posto. Abbiamo distrutto la Repubblica Ceca, vuol dire che faremo il torneo preolimpico. C'è Petrucci che sta tentando di organizzare una delle tre tappe dei tornei preolimpici, che saranno tre, a Torino, e speriamo che ci riesca. Avremmo voluto, ha detto anche Gallinari, man mano che passavano i giorni continuavamo a pensare e pensavamo sempre più intensamente alla medaglia d'oro. È arrivato un quinto posto, ma teniamocelo così. Raffaele, poi vi faccio sentire le voci sul basket. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Innanzitutto ringrazio per essere stato convocato. Senta, volevo fare una cosa. Pavito è andato via? Sì, telefonicamente, ah, sì. Non, sì, vabbè, no, non a me la trasmissione che fa mi piace moltissimo, solo il solito problema. Ma com'è che va così tardi, inizia a mezzanotte? Non potrebbe al limite fare la replica su Mediaset Extra verso le 20, 20 e 30 il giorno dopo? Perché certe volte io mi addormento, non riesco a vederla tutta, anche se è una trasmissione molto simpatica. Poi, seconda cosa è questa, io sono un tifoso della Roma, volevo sapere, quest'anno, la partita che c'è stata con Barcellona, secondo lei, mi può fare ben sperare per, diciamo, per una nella Coppa dei Campioni non veniamo eliminati in maniera avvilente e umiliante, o è un caso isolato? Anche perché poi, se lei va a vedere una partita, il gol del Barcellona era da annullare, il gol, certo, della Roma è stato fantastico, e quindi di conseguenza voglio dire un 1-0 non sarebbe stato scandaloso, visto che De Santis ha fatto grandissime parate e soprattutto Suarez, come mai non è stato espulso? Ha dato due calci e ha fatto fuori, so, il portiere polacco, voglio dire, mi sembra scandaloso. Il gol è stato irregolare, l'abbiamo visto tutti. Beh, oddio, diciamo che l'1-1, che sull'1-1 il Barcellona nel complesso non ha rubato niente, ha lucrato su quel gol irregolare, però insomma, ha giocato un'eccellente partita, ha giocato una partita da Barcellona. Può far ben sperare? Assolutamente sì, per i motivi che dicevamo prima, ma anche per il fatto che, e non è banale, la Roma ha imparato a soffrire, ha aggiunto probabilmente al suo portato, al suo DNA, anche questa caratteristica che fino all'anno scorso le faceva un po' difetto. Io devo confessare che, ma l'ho detto pubblicamente, a questi microfoni, era una partita che faceva tremendamente paura, quella con il Barcellona. Parlando con Paolo Rossi dicevo, forse un'onorevole sconfitta sarebbe accettabile. La Roma è andata ben oltre un'onorevole sconfitta con questo pareggio. Questa partita mi faceva paura perché fatalmente evocava fantasmi di un anno fa, quella disgraziata partita con il Bayern Monaco che poi ha finito per condizionare totalmente in maniera pesantissima tutto il campionato della Roma. Quindi è una squadra pronta, una squadra che tra tutte quelle italiane è quella che ha cambiato di meno, quindi questo vale per il campionato così come per la Coppa, quindi è più avanti rispetto alle altre, senz'altro eccellente segnale. Prima di andare in Inghilterra, dove il rugby è tornato a casa, vi faccio sentire Bargnani, Gentile e Aradori sulla chiusura dell'europeo italiano di basket. Penso abbiamo gettato delle fondamenta solide per la prossima estate, un gruppo incredibile di ragazzi. Personalmente rimane proprio tristezza di non poter continuare a giocare, che le partite siano finite, perché giocare con questi compagni di squadra era davvero fantastico, e quindi sono positivo per il futuro, insomma, abbiamo lasciato tutto in campo, quindi rimorsi non ce ne sono. Peccato, penso che avevamo una grossa opportunità di fare qualcosa di più. E purtroppo la partita di ieri è ancora una fresca, ancora personalmente nella mia testa, l'ultimo possesso ancora nella mia testa, quindi sono dispiaciuto per come è andata a finire, però penso che dobbiamo essere fieri del fatto che oggi abbiamo dato tutto per vincere e abbiamo veramente dimostrato di avere grande orgoglio e di dare tutto in qualsiasi situazione. Poi è chiaro, l'amarezza rimane e rimarrà per tanto tempo. Il passato è passato, non si può guardarsi indietro e rimpiangere, rimpianti non ne abbiamo, abbiamo dato il massimo, è sport, abbiamo perso, la Lituania ha fatto la partita della Madonna, noi sicuramente abbiamo sbagliato alcune situazioni, alcune scelte, ma il passato è passato e ci prendiamo questo preolimpico, ce lo teniamo stretto. Bargnani, Gentile, Aradori nell'ordine, quelli che avete sentito. Dicevo, il rugby è tornato a casa, così recita lo spot televisivo dei mondiali di rugby che cominciano questa sera a Twickenham, ore 21, Inghilterra Fiji, e c'è a casa del rugby anche Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Sì Carlo, io sono proprio già qui a Twickenham, sono arrivato per tempo. Sei arrivato per tempo a Twickenham, con buon anticipo. Contento di esserci, sentendo quello che ha detto Aradori, ti dirò che intanto, se posso ripetere quello che ha detto lui, sarei felice che l'Italia domani con la Francia giocasse una partita della Madonna, no, poi vediamo, sì, sì, vediamo come va a finire. Sì, poi tra l'altro, tra l'altro leggevo 203 paesi collegati, prima parlavo di TV con Antonio Di Pollina, 203 paesi collegati compresa la Cina, 450.000 tifosi turisti, 48 partite in 13 stadi, 2,4 milioni di biglietti venduti. sappiamo bene che come il mondiale di rugby sia ormai è il terzo evento, no? Dopo le Olimpiadi mondiali sì, di calcio. Dopo le Olimpiadi, dopo i mondiali di calcio, sicuramente c'è anche una buona propensione del tifoso del rugby a spendere, ad arrivare da molto lontano, quindi a fare delle trasferte lunghe. D'altronde il campionato del mondo dura 6 settimane, quindi è un affare, si calcola 1 miliardo di aggiunta al PIL britannico grazie a questa manifestazione. Mica poco. No, non tanto è domani... poco, è un affarone, ecco. un affarone, certamente. No, anche sentiamo, perché non ci sono stati da costruire e così via, e quindi... Chiaro, perché lì gli stadi sono già pronti e sono meravigliosi. Sentiamo, a proposito della partita dell'Italia di domani, la voce di uno dei guru della squadra azzurra, Mauro Bergamasco. È una Francia che comunque è presente su tutto il campo, e ha saputo affrontare fisicamente e tecnicamente sia Inghilterra che Scozia, e quindi è una squadra che ha avuto un rodaggio importante con 2 vittorie su 3, e non è poco. Ora la Francia la conosciamo, ma penso che dovremmo mettere qualcosa in più a Twickenham per riuscire a portare a casa questa partita. Non sarà per niente facile. Domani ore 21 non sarà per niente facile, sarà difficilissima. Come difficilissimo è questo girone. Canada e Romania sono quelle che non si può nemmeno pensare di non battere, e poi o Francia o Irlanda. Sì Carlo, diciamo, se vogliamo acquisire un po' di coraggio, che contrariamente a quello che è successo nelle 7 edizioni precedenti del Mondiale, fra le avversarie dell'Italia non ce n'è nemmeno una che non abbiamo mai battuto. Però sì, questo che può aiutare fin lì. È molto difficile, soprattutto è quasi impossibile pensare di poter battere l'Irlanda, e quindi l'Italia il grosso se lo gioca domani. Nonostante, cioè, se lo gioca domani, ma deve fare i conti anche con l'assenza di Sergio Parisse, che è il capitano, il giocatore di maggiore classe, e soprattutto negli ultimi tempi è diventato anche un trascinatore. Abbiamo sentito Mauro Bergamasco, che domani non sarà della partita, nel senso che non andrà neppure in panchina, però mi piace ricordare che se Mauro giocherà anche solo un minuto, diventerà il secondo giocatore al mondo, dopo il samoano Brian Lima, ad aver giocato in 5 coppe del mondo diverse. Sì, vuol dire, sì, che questo signore nel 99 era qui a Twickenham nella partita inaugurale con l'Inghilterra, e dopo 16 anni merita ancora un posto in nazionale. È ancora qui. Ne parleremo a lungo. Potrebbe anche voler dire che non ci sono abbastanza ricambi, ma comunque. E questo è inevitabile dirlo e pensarlo, ma l'abbiamo fatto molte volte. Giacomo, parleremo a lungo dei mondiali di rugby, tanto tu stai lì, ti guardi a Twickenham, Inghilterra, Fiji che apre le danze, e poi domani sempre ore 21, sempre Twickenham, Italia-Francia, che tutti stiamo aspettando. E poi domenica All Blacks Argentina, sai dove? Eh? A Wembley. Quindi mica. Il rugby è tornato a casa, come dice quello spot televisivo. Grazie Giacomo Bagnasco, torniamo a casa anche noi da Expo. Saremo qui, però ricordo, Radio 24 da oggi e per tutta la prossima settimana, con vari programmi, con tutta la nostra programmazione. Per quanto riguarda tutti i convocati, mercoledì e giovedì saremo qui. Ringrazio tutti, a cominciare da Giorgio De Luca, il nostro autore, c'è Benjamin che è qui con me, Carmelo Lauricella in regia, ringrazio anche chi ha lavorato in regia in redazione a Milano. Ciao a tutti.